Allora, noi siamo qui con la professoressa Patriarca per parlare del suo ultimo libro uscito per Einaudi Storia. Si tratta del Colore della Repubblica, un libro che appunto è di 240-270 pagine a seconda, e costa 27 euro, è tradotto per l'Italia da Duccio Sacchi. E Silvana Patriarca appunto è una storica, insegna storia contemporanea alla Fordham University di New York, e ha lavorato appunto sul concetto di italianità nella sua carriera accademica, oltre ovviamente a tantissime altre cose, e poi è ritornata a parlare e a approfondire ancora meglio con questo libro la vicenda, le storie dei circa 3.000, poi appunto i numeri sono magari imprecisi, la professoressa ci spiegherà meglio più tardi, i 3.000 figli della guerra, cosiddetti, insomma i bambini e le bambine nate dalla relazione fra donne italiane e soldati neri dell'esercito alleato durante la seconda guerra mondiale, i cosiddetti brown babies in inglese, o mulattini come venivano chiamati appunto in Italia. Quindi un libro di storia, sicuramente un libro di storia, ma che parla tantissimo all'Italia di oggi, a chi siamo stati, a chi siamo ancora, e a quel concetto appunto di italianità su cui si gioca tantissimo il diritto di cittadinanza. Sì, soprattutto per smontare tutta la retorica che poi mantiene tutta una serie di una narrazione sull'italianità che fa magari a qualcuno fa sorridere, e anche grazie al suo libro forse si può decostruire questa narrazione. Esattamente, infatti la prima domanda proprio che le facciamo è su questo, no? Sulla genesi di questo libro, su come è stato difficile far emergere questa parte di storia esclusa dalla storiografia ufficiale, rintracciarne le fonti e decostruire appunto la nostra bianchezza. Sì, in effetti la genesi è composita, perché in parte è legata al libro precedente, quando avevo decostruito un po' la costruzione del carattere nazionale, e quindi mi ero resa conto di quanto anche la razza, il concetto di razza, fosse presente in questa costruzione appunto di un carattere nazionale, soprattutto nel periodo fascista naturalmente, ma anche prima nel periodo coloniale. E poi non avevo esaminato quello che succedeva dopo, insomma, dopo il fascismo, dopo il periodo coloniale, a questo concetto. E quindi volevo sapere qualcosa di più di questa storia, no? Di quanto ha pesato, insomma, questo concetto di razza nella nostra identità di italiani. E volevo appunto leggere un libro che non avevo ancora letto, cioè un libro di storie delle idee. Però a un certo punto mi sono resa conto di come si sapesse poco sul periodo dopo il 45, e mi è capitato tra le mani, grazie a un altro studioso, questo libro di Antonio Campobasso che si chiama Nero di Puglia. E allora mi sono resa conto che lì c'era una storia che non era ancora stata raccontata, quindi la storia di questi figli della guerra dalla pelle scura. E mi sembrava che era una storia molto importante, perché appunto poteva parlare anche all'oggi, e mi sembrava molto importante appunto fare una storia, cioè rispondere a delle questioni urgenti nell'Italia contemporanea. Quindi diciamo che ci sono vari impulsi, insomma, dietro a questo libro, e in parte vengono, direi così, in parte grande, vengono appunto dal dibattito che abbiamo oggi in Italia su che cosa vuol dire essere italiani, e su chi sono gli italiani, insomma, perché si continua a collegare implicitamente italianità e bianchezza. E molti studiosi e studiose hanno cominciato hanno studiato in questi ultimi anni questa cosa, soprattutto nelle rappresentazioni, nei media e così via. E mi sembrava importante invece studiare anche una storia che mettesse al centro le persone. Quindi è soprattutto una storia in questo caso di bambini, che è molto rilevante per l'oggi. Assolutamente sì, infatti il libro è veramente pieno di storie umane di questi bambini, delle loro famiglie, delle loro mamme, soprattutto di quello che poi hanno dovuto subire questi ragazzini. C'è una parte molto interessante nel libro di cui vorrei discutere con lei, e la maggior parte di questi bambini sono poi finiti in orfanotrofi, e questi orfanotrofi gestiti anche dalla Chiesa. Quindi volevo chiederle un po' di parlarci del rapporto ambiguo che ha avuto la Chiesa nel processo di integrazione o di non integrazione appunto di questi figli della guerra dalla pelle scura. Sì, questo è una parte molto importante della, di questa storia, perché in effetti pensiamo al ruolo della Chiesa Cattolica in Italia, nella storia italiana, poi soprattutto in quel periodo lì, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma la, il Vaticano e la Democrazia Cristiana erano i principali attori politici in Italia, e quindi sono e tutti questi orfanotrofi erano gestiti in gran parte da, da religiosi, quindi diciamo che il ruolo della Chiesa nella storia è importante, e poi anche il ruolo dell'ideologia cattolica, del, del cattolicesimo, il rapporto del cattolicesimo con anche l'idea dei non bianchi come primitivi, cioè tutta la tradizione missionaria, insomma, dei, della Chiesa, e si trova anche in questa storia qua, nel modo in cui appunto persone legate, cioè preti, sacerdoti che erano impegnati appunto nell'assistenza in quegli anni si rapportavano a questi bambini. Cioè quello che mi ha colpito è il fatto che insomma si rapportavano a loro come se si fossero rapportati a dei piccoli africani che incontravano appunto nelle missioni, cioè, e avevano, erano ancora intrisi, allora la mentalità loro era ancora intrisa da questa, da queste idee essenzialiste sulle differenze di razza. Quindi c'è un, c'è un'ambiguità, c'è questo, questa idea che siamo col cattolicesimo, con il cristianesimo, siamo tutti figli di Dio, ma poi allo stesso tempo ci sono queste categorie razziali che operano nella mente di queste persone e che continuano a operare, a esistere anche oggi. Comunque lì era molto evidente, quando io poi mi sono accorta appunto, quando poi sono riuscita ad accedere agli archivi di queste istituzioni religiose, mi sono accorta appunto di cosa stava dietro a tutto il discorso che si trovava nella stampa di quel periodo, che diceva adesso aiutiamo, assistiamo questi bambini e magari li mandiamo anche via, perché qui trovano, si trovano tra molte ostilità, c'è cioè molta ostilità nei loro confronti, invece li mandiamo in un posto dove non incontrano queste ostilità. Quindi insomma il discorso pubblico è un discorso di appunto assistenza, aiuto, dietro a questo però c'era altro, e quindi quello che è stato particolarmente interessante è vedere quello che c'era dietro a tutto questo, e accedere a queste carte è stato fondamentale, accedere a questi archivi. Molto spesso è difficile accedere agli archivi del periodo post-fascista, perché ci sono questioni legate, insomma, a restrizioni per vari motivi, privacy ma anche altro, e poi ci sono naturalmente molti archivi che non sono ordinati, infatti alcuni di questi archivi sono stati ordinati solo molto di recente, quindi questa è una storia che è stata anche resa possibile da, da questo, diciamo, da un'apertura di certi archivi, e però comunque è molto difficile, è stato per molto tempo, insomma, io ci ho impiegato abbastanza a cercare queste carte, perché non sono non appaiono, a volte non appaiono neanche catalogate negli inventari, cioè non, se uno guarda gli inventari non riesce a sapere se dove sono le carte relative a questi bambini, quindi insomma c'è stato un po' un lavoro di così, di quasi da detective, per trovare un po', ricostruire queste storie. Il suo libro parla appunto soprattutto delle conseguenze del fascismo, ad esempio di quello che è stata l'occupazione dell'Italia da parte nazista, il fascismo, le truppe alleate, quindi va a parlare appunto di tutto ciò che è avvenuto dal 45 in poi in soldoni, e va a raccontare anche giustamente come anche i cosiddetti padri della Repubblica, no? I costituenti e tutti non rifiutarono il termine razza, no? Cioè, ci fu un rifiuto del razzismo come diciamo quello lì istituzionale, però poi il discorso sulla razza è rimasto insito in questo paese, e lei fa attraverso le pagine del suo libro appunto un lavoro di decostruzione, anche lo dicevamo prima, sull'italianità, sul concetto stesso di razza, su come il fatto che già dalla nonostante no, ci furono ci mise un po' l'Italia prima di togliere la legge che non che impediva ai padri di riconoscere i figli che avevano avuto, no, nelle colonie, da donne native e via dicendo. Diciamo che per liberarsi del concetto di razza e quindi anche indirettamente del razzismo ci è voluto un po', talmente tanto che siamo al 2021. Sì, certamente. No, e poi direi ci è voluto un po' anche perché appunto prima c'era la storia, la narrazione dominante dopo il 45 è quella degli italiani brava gente. Esatto. Quindi non siamo davvero razzisti noi, insomma i razzisti, il razzismo è una cosa inventata dal fascismo, più o meno caduto il fascismo non c'è più. Invece cioè, continua ad esserci, c'è nella Costituzione, c'è naturalmente il riferimento alla razza in funzione antirazzista, e però diciamo che non c'è una discussione sulla questione della legge della cittadinanza che è basata sullo ius sanguinis. Esatto. Quindi ecco, quindi qui c'è un problema fondamentale che è questo appunto della continuità, della grossa continuità di questa legge che ti dice chi è italiano e chi no, sulla base di che cosa. Quindi c'è la discendenza da un altro italiano, che tra l'altro è una legge patrilineare fino a quando non c'è la riforma, cioè fino a quando già con una sentenza della Corte Costituzionale dell'83 dichiara che non anche le madri possono trasferire, le donne sposate possono trasferire la cittadinanza, prima era solo il padre, e quindi lo ius soli era limitato alle donne, ai bambini che nascevano in Italia da genitori ignoti, oppure appunto da una donna non sposata poteva dare naturalmente la cittadinanza. Ma ecco, questo ius sanguinis, anche se non menziona la razza, però introduce il sangue, insomma, che è sempre collegato anche alla razza. Quindi ecco, cioè quella continuità lì, e poi diciamo che c'è anche comunque il concetto di razza che non viene decostruito anche a livello di cultura popolare o anche nei manuali di geografia, insomma continuano a esserci visioni del passato rispetto appunto ai gruppi umani, e questo è fondamentale, insomma il modo in cui ci si concepisce, cioè non cambia diciamo il modo in cui ci si concepisce in quanto italiani, e quindi il legame poi con la bianchezza, anche se esatto, nel caso dell'Italia è una bianchezza diciamo un po' meno bianca di altri, con diverse europei. Sfumature tra l'altro, no? Ecco, no, con altre sfumature, no, eccetera, però continua ad essere così, cioè ci si pensa in quel modo lì, no? Quindi diciamo decostruire queste strutture ci vuole molto per ricostruire queste strutture, ma bisogna cominciare a farlo, e adesso negli ultimi anni naturalmente lo si fa, ma forse non ancora abbastanza, cioè bisogna capire ancora un po' di più forse questa storia post-fascista, insomma, della Repubblica. La sintesi la sintesi secondo me è anche in quello che lei spiega e racconta bene, il fatto che i figli di coppie tra soldati tedeschi, comunque occupanti, non è occupanti bianchi e non occupanti neri, come nel caso di una parte delle truppe americane, ovviamente hanno avuto poi nel dopoguerra un trattamento completamente diverso grazie al colore della propria pelle. Sì, perché certo, lì insomma ci sono anche lì naturalmente bisogna notare, come aveva fatto alcuni anni fa nel suo libro Michela Ponzani sui figli del nemico, che anche lì alcuni di questi bambini naturalmente vivevano situazioni pesanti, perché insomma se erano nati fuori dal matrimonio sono stigmatizzati comunque, però appunto si possono confondere poi con gli altri bianchi, no? Non risaltano, cioè il loro colore non li distingue, e quindi cioè nel caso di questi bambini, invece dei bambini dei soldati afroamericani o comunque non bianchi nell'esercito alleato, insomma loro si vedono e immediatamente sono classificati come diversi e trattati come diversi, e quindi ci sono delle storie molto, molto tristi di questi bambini, insomma, maltrattati da altri bambini che assorbivano naturalmente quelli che erano i valori dominanti, cioè le idee dominanti rispetto, rispetto al colore. Tra le altre cose che lei scrive bene in questo libro, no? Appunto, rimanendo sempre su come si sentivano gli italiani, la loro bianchezza, ossia il sentimento antimeridionale, quindi un po' meno bianchi tra gli italiani, è un sentimento che non nasce nel dopoguerra, no? Con l'immigrazione di massa, certo. Chiamola così. Lei racconta e spiega molto bene che nasce da fine 800, poi c'è la sospensione, no? Durante il periodo fascista, e poi l'altro, in questo caso il meridionale, che si sposta verso la parte più produttiva del paese, diventa appunto il diverso, quello più scuro, quello che ha un colore differente e quindi oggetto di razzismo sistematico, come è successo in Italia negli anni 50, 60 e via dicendo. Riesce appunto attraverso questo racconto, di nuovo, no, siamo sul concetto di bianchezza degli italiani e di un fatto di un razzismo che è sempre stato, direi, quasi sistematico da parte degli italiani, nonostante poi siamo un paese che ha un'identità da neanche 200 anni. Sì, no, c'è questa storia più antica, insomma, di questa divisione interna, no? Di questa razzializzazione anche degli abitanti del sud dell'Italia, insomma, che è molto forte alla fine dell'Ottocento. Qualcuno direbbe forse c'è già anche prima, però direi l'esplosione proprio con la fine dell'Ottocento. E poi questo ritorno durante l'immigrazione dal sud al nord, e poi naturalmente con l'enorme discorso anti-sud della Lega, cioè della Lega Prima Maniera, insomma, della Lega Nord, adesso trasformata in Lega Nazionale. Ma quindi c'è tutto un retroterra importante su cui si può costruire anche, si costruisce anche o si rafforza anche l'altro razzismo. Quello che però io trovo è che a volte il razzismo antinero veniva assorbito da chi era razzializzato al sud, veniva appropriato e si diceva, non so, alcuni, quando c'era questo dibattito sul razzismo negli anni 60, al fine degli anni 60, sul razzismo contro i meridionali stessi dicevano: ma noi siamo i veri neri, noi siamo i veri negri, come si diceva allora. Esatto. Quindi cioè, c'è un po' un'equivalenza, c'è una tendenza un po' a fare un'equivalenza tra questi due tipi di razzismo, che però, insomma, secondo me bisogna stare un po' attenti con questa equivalenza, perché non è esattamente la stessa cosa. Cioè, a un certo punto, no, di fatto anche gli italiani del sud immigrati al nord sono poi stati molto più assorbiti, ecco, di nuovo il discorso di chi riesce ad essere più assorbito oppure meno. E quindi direi che lì, insomma, è un discorso complesso da fare tra l'articolazione dei vari razzismi, quelli interni e quelli esterni, perché appunto ci sono momenti in cui si possono congiungere facilmente, altri in cui bisogna stare attenti a non fare facili equivalenze, secondo me. Un'altra cosa che mi incuriosisce, allora, in Italia di discorsi che vanno anche qui a destrutturare, a decolonizzare quella che è stata la storia italiana, non sono piuttosto difficile da trovare, o comunque trovare spazio per discorsi del genere. Gli Stati Uniti, soprattutto in questi ultimi anni, no, per i movimenti che non stiamo a raccontare, perché noi raccontiamo attraverso questa radio quello che è successo fino all'ultimo, no, nel Black Lives Matter, invece da anni sta facendo un discorso di riscrittura della storia, appunto, no, in chiave anticolonialista. Perciò mi chiedo quanto il suo lavoro che lei ha svolto, appunto, nonostante parlasse dell'Italia negli Stati Uniti, fosse anche inserito in un clima, tra virgolette, favorito da un clima e una discussione che è in atto negli Stati Uniti. Sì, certamente è stato favorito. Direi che le motivazioni sono state, per me sono state soprattutto legate al, appunto, al mio lavoro precedente sull'identità italiana e poi al rendermi conto di quanto, di come ci fosse tanto razzismo in Italia. Io vengo in Italia regolarmente, insomma, lo sento, lo vedo, mi preoccupa. Però è evidente che poi, diciamo, il tipo di discussione che c'è negli Stati Uniti e anche il tipo di tantissimi studi vengono fatti, insomma, c'è molto lavoro di analisi, di studio, di discussione, di dibattito qua, certo ha favorito molto anche poi così il pensare questo libro e come svilupparlo. Quindi c'è una storiografia su queste questioni molto ampia e ci sono appunto lavori che sono stati fatti sia in ambito inglese, cioè, e tedesco sui bambini appunto di quel nati nello stesso contesto dopo la guerra lì, e sono lavori fatti appunto da studiosi americani e quindi c'è una storiografia ricca da questo punto di vista. La storia degli afroamericani è molto vasta e la storiografia, insomma, ha prodotto dei lavori molto importanti anche per appunto cambiare, insomma, decolonizzare il pensiero. E quindi tutti questi movimenti, soprattutto negli ultimi anni, direi dal, appunto da quando è nato Black Lives Matter come movimento, poi la sua esplosione, proprio il suo grande sviluppo l'anno scorso dopo l'uccisione di Floyd, questo ha favorito ancora di più il dibattito e direi a livello di università è molto presente adesso, cioè c'è un grosso sforzo, direi, da parte di molte di docenti a tutti i livelli in varie discipline per appunto attuare questa decolonizzazione e per far sì che gli Stati Uniti pensino più criticamente al loro passato, quindi mettano più al centro del dibattito appunto della memoria storica i lunghi anni dello schiavismo e della segregazione. Cioè, quindi questo non è solo una parte minore della loro storia, una parte fondamentale della loro storia. Quindi diciamo che c'è, direi, questo lavoro qui certo ha influito anche su di me, così nello spingermi a lavorare su queste questioni. Bene, intanto diamo un'informazione per chi ci ascolta: il precedente lavoro della professoressa Patriarca era stato pubblicato dalla Terza e si intitolava proprio Italianità, appunto, per chi volesse leggerlo. È assolutamente interessante andare a vedere anche quel tipo di lavoro. E per continuare e anche andare un po' verso la conclusione, non le vogliamo rubare appunto più del tempo che le abbiamo chiesto, e volevo dire intanto a chi ci ascolta, penso si sia reso conto che quanta complessità e quante cose interessanti ci sono in questo libro. Tra l'altro scritto in maniera semplice, nel senso, infatti, che usando anche dei ganci, quelli del cinema. Dei ganci, esatto, diciamo che riguardano un po' la nostra cultura, no? La cultura popolare, il cinema, i libri, la musica, no? Io penso che tutte e tutti noi, ogni volta che, cioè, appena abbiamo sentito la storia, insomma, io appena ho iniziato a leggere la storia, ovviamente la prima canzone mi è venuta in mente è Tamurriata Nera, e ovviamente lei la cita nel libro. E sì, appunto, si imparano tantissime cose leggendo questo libro, professoressa. E per esempio io ho imparato chi era James Senese. Io lo conoscevo soltanto, diciamo, nella sua versione musicale, non avevo assolutamente idea della sua storia, e questo mi è piaciuto tantissimo. E un'altra cosa che mi ha colpito, professoressa, è che non mi ero mai soffermata sulla ragione per il quale il mio paese, l'Italia, avesse scelto lo ius sanguinis al posto dello ius soli. Non mi ero mai soffermata sul perché. Effettivamente c'è una ragione storica che probabilmente adesso non ha più valore, ma lei ce la vuole raccontare questa ragione storica, perché l'Italia ha scelto lo ius sanguinis invece che lo ius soli? Sì, lo Ius Sanguinis è molto legato a quel periodo storico in cui milioni e milioni di italiani avevano già lasciato l'Italia per emigrare nelle Americhe. Lo Stato voleva, e in molti casi erano stati costretti a prendere una cittadinanza diversa, e lo Stato era molto interessato a mantenere i rapporti con la diaspora e a far sì che chi andava all'estero potesse comunque dovesse prendere una cittadinanza estera, quando non c'era la possibilità della doppia cittadinanza. Gli stati non pensavano proprio a questo tipo di possibilità. Allora potessero riacquistare facilmente la cittadinanza italiana, sia per se stessi che per i figli. Quindi era un modo, diciamo, di tenere il rapporto, appunto, con la diaspora. C'erano poi anche altre ragioni che hanno a che fare con idee sull'italianità che vanno già indietro, insomma, nella storia dello Stato. Però la questione fondamentale era proprio questa, cioè era che si voleva mantenere questo contatto e anche, diciamo, mantenere, far sì che ci fosse una concezione dell'italianità che potesse incorporare quegli italiani che allora, quelli che si consideravano allora italiani, ma che non erano ancora nell'Italia. Cioè una legge del 1912, quindi prima che le cosiddette terre irredente diventassero italiane, no? Quindi quelle zone dell'impero austro-ungarico in cui c'erano residenti che parlavano italiano, che avevano una cultura italiana. Quindi c'è tutto questo, per cui l'italianità non è tanto quella che viene conferita dal suolo, quanto quella che viene conferita da questo popolo italiano che sta fuori dall'Italia, no? Quindi è un riflesso del modo in cui si è fatta l'Italia e della storia italiana stessa. La Francia metteva molto più enfasi sullo Ius Soli, per altri motivi, per una storia diversa, insomma. Quindi diciamo che queste leggi di cittadinanza sono spesso il riflesso di specifici contesti storici e possono cambiare nel tempo. Una legge simile ce l'aveva anche la Germania, e la Germania in anni recenti l'ha finalmente cambiata, dando molte più possibilità, ampliando lo Ius Soli. Quindi, voglio dire, queste leggi sono contingenti, non sono un assoluto, possono essere cambiate e devono essere cambiate quando, appunto, la situazione diventa diversa, e il mantenerle così come sono crea esclusioni. Quindi, insomma, l'Italia deve decidere che cosa vuole essere a questo punto, se vuole mantenere questa legge del passato, che tra l'altro fu poi nel 1992, quando ci fu la riforma, invece di attenuare lo Ius Sanguinis, venne ancora accentuato. Esatto. E lì per via delle pressioni che venivano di nuovo dalla diaspora, direi, però anche con le preoccupazioni che l'immigrazione stava creando nell'elite del paese. Quindi ci sono anche lì, c'è una complessità di ragioni che riflette quel momento lì, però appunto è una legge ormai, quella del 92, di 30 anni fa, forse è il momento di cambiarla. Forse è il momento di cambiarla, siamo sicuramente d'accordo. Sì, tra l'altro l'Italia ha già scelto da che parte essere, perché mi sembra abbastanza evidente con i finanziamenti che vengono fatti in Libia. Mm-hmm. E per impedire, appunto, l'immigrazione, anche semplicemente per rinchiudere in veri e propri lager centinaia e centinaia di persone che cercano semplicemente una vita differente da quella a cui sono costretti. Noi andiamo in chiusura a ringraziarla, perché e ribadire di nuovo che il suo lavoro ci è piaciuto tantissimo. Tanto, veramente tanto. Pensiamo che sia un libro che va letto, perché tra l'altro va a coprire un buco storiografico su cui ci avete lavorato in pochi. È evidente, perché poi chi più chi meno, che è più interessato alla storia, questa è una parte che manca. E che è anche buono che venga restituita attraverso una pubblicazione, appunto, come dicevamo, che ci è piaciuta anche perché riesce ad arrivare, noi crediamo, a chiunque, scritto in maniera abbastanza semplice, da un sacco di informazioni, e che di cui molte di queste informazioni magari almeno ne eravamo sconosciuti, ma no, perché noi siamo chissà che storici, ci mancherebbe. Però il grosso di alcuni spunti che lei dà, ovviamente manco mai sentito alla lontana, e quindi è una di quelle consigli, che una di quelle letture che consigliamo, e che tra l'altro, appunto, abbiamo voluto fortemente il contatto con lei per parlarne insieme, perché ci è piaciuto molto. Quindi ringraziamo tantissimo, sì. Ringrazio. E noi chiudiamo le nostre interviste sempre con una domanda di rito e un consiglio di lettura, quindi un libro che lei sta leggendo in questo momento, oppure un libro che ci vuole consigliare in lettura in assoluto. No, è un libro che ho preso, ero in Italia quest'estate, ho comprato e l'ho letto adesso, che cioè, è molto ben scritto, e dice appunto le cose, insomma, come stanno le cose dal punto di vista di una persona con la pelle scura oggi in Italia. Si chiama L'unica persona nera nella stanza. 66 forse lo conoscete, sì, già, sì, Nadisha Ugyangoda, yeah, che esatto. mi piace molto, è il libro che sto leggendo in questo momento. Sì, sì, è un editore romano, 66 and sì. Second, indipendente, siamo molto contenti di questo consiglio, quindi grazie, sì, mille. Leggerò altre cose di questo editore, perché insomma questa mi è sembrata un'ottima scelta. Grazie a voi. Grazie davvero. È stato un piacere. Un abbraccio. Piacere mio. Arrivederci. Grazie. Ciao. Nada, 20:56, ci fermiamo 2-3 minuti, ci facciamo trasportare da un po' di musica e poi rientriamo per la terza parte di Tabula Rasa. Cosmos engrossed on this planet Earth. Furious like Millie Mel, I'll crack your jaw with a crowbar. I'm raw as Muammar Gaddafi. Monopoly on my property, my life's philosophy. Come talk with me, fuck Socrates, Plato and Aristotle. I'm fatal as hemlock in the bottle. Females wanna fondle the lyrical models. I flex my tonsils. I do awful acts of rap terrorism. I'm making a lawful living in prison. Seas in the cell block in my brain. Unlock the wisdom on parole like an ex-con. With swollen pythons who got his mind on. Getting his blind on with tattooed tears marking the years under his third eye. Torniamo in onda con Tabula Rasa, torniamo con il libro, il primo libro di questa serata, che è Il banchetto annuale della confraternita dei Becchini, scritto da Mattia Enar, e abbiamo con noi la traduttrice di questo e di altri libri, non solo di Mattia Enar ma anche di altri autori come Pennac eccetera, e si chiama Yasmina Melua, e quindi benvenuta a Radio Onda Rossa e a Tabula Rasa. Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei, grazie a lei. Dunque, allora, stiamo parlando di un libro molto corposo, molto grande, sia come mole, è un libro di 480 pagine, uscito pochi mesi fa, presentato anche al Salone del Libro di Torino. È un libro molto complesso, molto grande, si può parlare di qualsiasi cosa quando uno legge Nar, ma in particolare per questo, perché è un libro in cui c'è una trama molto semplice in teoria, perché si parla di un antropologo che arriva in una zona rurale della Francia e da quel momento inizia a scoprire il popolo rurale francese e deve scrivere una tesi di laurea. E da quel momento in poi inizia a incontrare dei personaggi vivi o morti, o chissà in quale situazione sono, e scopre un mondo molto particolare che teoricamente a livello antropologico sarebbe interessante, ma invece diventa letteratura e diventa la storia e il racconto della confraternita annuale dei Becchini di questo piccolo centro rurale francese. Ecco, io la prima cosa che volevo chiedere alla nostra ospite era se c'è una sola trama che riguarda il libro, oppure se quante ce ne sono. Bella domanda. Allora, potrei rispondere, potremmo dilungarci molto a rintracciarne tante. Io direi che il tema conduttore credo sia questa idea che sottende questo romanzo della ruota delle reincarnazioni, perché appunto nella parte interna, insomma la cornice del romanzo è costituita dal diario dell'antropologo, e all'interno invece c'è la descrizione di questo grande banchetto annuale appunto che i Becchini francesi fanno nel paesino dove si è insediato l'antropologo, e che costituisce il nucleo centrale del romanzo, intorno al quale però poi ruotano tutte le storie un po' di molti degli abitanti del villaggio, e soprattutto questa idea presa a prestito dal buddismo della reincarnazione, della ruota, cioè ogni essere vivente, dal più umile al più nobile, cioè dal pidocchio fino al grande personaggio storico, in realtà è gettato in questa ruota delle reincarnazioni, per cui via via si reincarna in un essere superiore o inferiore a seconda di come si è comportato durante la vita. E quindi io credo che Enar sfrutta questa idea del karma, che appunto è una parola che viene usata un po' così all'acqua di rose, ma in realtà è un concetto molto interessante, cioè quello che noi in realtà ogni essere vivente eredita le proprie azioni, cioè a seconda di come si comporta nella vita occuperà un posto più o meno nobile nel ciclo delle reincarnazioni. E questa idea permette a Enar, questa idea della ruota di costruire un'infinità di storie, proprio perché insegue tantissimi personaggi nel passato, nel presente, le loro varie reincarnazioni, e riesce in questo modo appunto, e qui torno alla sua domanda, a fare di questo romanzo anche una specie di grande metafora della letteratura nella, proprio in questa idea della ruota, cioè nella capacità di prendere tutte le storie, quelle alte, quelle basse, la meraviglia, l'orrore, la comicità e la tragedia, no? E gettare tutto dentro quel meccanismo, quella ruota meravigliosa che è il meccanismo narrativo. Quindi poi appunto, volendo, potremmo rintracciare tante storie, delle storie familiari, delle storie sociali, una strizzata d'occhio, più che strizzata d'occhio, alle questioni del tema dell'ambiente, la difesa del pianeta. Però potremmo, per me, fermarci a questa idea della ruota come proprio un'immagine della potenza della letteratura di macinare storie. E mi sembra che questa potrebbe essere una chiave, ecco. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, soprattutto nel momento in cui poi una delle ricchezze, secondo me, del romanzo è proprio la polifonia dei personaggi, cioè si tiene tutto e tutto quanto, dal ricercatore universitario alle grandi citazioni dei vari Malinowski, Levi-Strauss e altri grandi antropologi, ma non solo, la grande letteratura gargantuesca francese, insomma, c'è veramente tutto, e tutto si regge tutto insieme, e viene tutto quanto confezionato, secondo me, a regola d'arte, per come Enar sa fare. Una delle altre cose che mi avevano colpito, oltre alle tracce di cui si parla, erano anche proprio i temi, cioè i libri di Enar sono ogni volta uno diverso dall'altro. Lui è un grandissimo scrittore francese, è un traduttore a sua volta, è un arabista, e si autoproclama contrabbandiere di storie, si definisce. In realtà quelli che scrive, secondo me, non sono proprio romanzi, è un qualcosa di ipnotico, cioè non ci sono trame, in realtà c'è un qualcosa di ipnotico che è oltre la trama, e secondo me riesce a costruire sempre qualcosa di nuovo, come aveva fatto con Zona, che è stato sempre tradotto da lei, Yasmin, e ha sempre parlato poi di Oriente, e invece questa volta torna a casa, e per parlare di casa sua, della Francia rurale, in questo caso i temi che riesce ad incrociare, e secondo me è una delle grandi forze del romanzo, è che mette insieme sia la vita e la morte, quindi vari scontri, diciamo, c'è la filosofia, c'è l'accademia, in particolare però, appunto, come dicevamo prima, ci sono molti temi attuali, come ad esempio quella dell'ecologia, addirittura ci sono dei riferimenti anche a Greta e ai funerali bio, che è un qualcosa di, in alcuni casi, anche molto divertente. Tra la periferia e il centro, e c'è il tema femminile, per esempio, quando ad esempio nella confraternita il primo tema che viene discusso all'interno della tre giorni dei 99 becchini che si riuniscono è la mozione che vuole l'ammissione delle donne nella confraternita. C'è tanto cibo, c'è tanto vino, in assoluto però secondo me uno dei temi è la lingua. Proprio la lingua letteraria e la lingua anche popolare. Non so come la vede lei. Sì, sicuramente. Credo che in questo in questa specie di romanzo mondo, perché poi i romanzi di Enar, penso a Zona, ma anche a Bussola, ad altri, potremmo veramente definirli romanzi mondo, cioè è come se ci fosse un piacere, una festa di aprire, spalancare proprio le porte del genere romanzo, che è un genere che è sempre stato un genere felicemente impuro, cioè che ha sempre accolto tanto mondo, no? Fin dai grandi romanzi ottocenteschi, quella dismisura, no? Dei romanzi ottocenteschi, e in questo senso Enar è proprio figlio di quella tradizione, cioè di quei mostri tipo i romanzi di Hugo, di Dostoevsky, di Dickens, anche dei romanzi appunto non impeccabili sul piano stilistico, con molta dismisura, forse è questa la parola che funziona, ma in cui c'è proprio il piacere di far entrare il mondo. E un aggettivo che mi piace usare anche per i suoi romanzi è l'aggettivo impuro, che una volta ho detto proprio a Einari, i tuoi sono dei romanzi impuri, e lui era molto contento, in realtà gli è piaciuta questa idea. E appunto anche il lavoro che fa sulla lingua, la consapevolezza che ha della lingua, è proprio giocato su questa festa dove ci sono tutti i registri, per cui c'è appunto il diario dell'antropologo, dove c'è questo trentenne che scrive senza freni, un po' da appunto da trentenne che appunto che non sorveglia tanto così la bella lingua, e poi c'è tutta la parte centrale con questo pastiche alla Rabelais, che apro una piccola parentesi in difesa della categoria, è stato un'impresa a tradurre. Perché appunto perché proprio perché è come se ci fosse una specie di gioco di citazioni un po' della lingua di Rabelais, e poi c'è il riferimento anche al genere letterario proprio del banchetto, per cui il gusto della conversazione, della prolusione, e tutto questo gioco sempre con il piacere di accostare l'alto e il basso, che direi che è proprio uno dei suoi tratti. E rispetto a quello che diceva prima, anche appunto il fatto che tutti i suoi romanzi precedenti solitamente sono molto esotici tra virgolette, e qui invece lui torna non solo in Francia ma addirittura nel suo paese natale, ed è molto interessante perché porta però lo stesso sguardo curioso, avido del viaggiatore, no? che viaggia per l'Oriente, lo riporta in un luogo piccolissimo da cui riesce però quasi a guardarlo appunto come se fosse forse con l'occhio dell'antropologo, ma insomma anche con l'occhio del grande viaggiatore che viaggia in Oriente, e questo fa sì che che riesca a far emergere tutta la ricchezza, anche la ricchezza della lingua, insomma. Ecco, proprio tornando, volendo parlare invece poi di traduzione, perché insomma Yasmina Melawa è non solo traduttrice di Mattia Enar, ma cito per esempio Pennac o Camus, insomma tanti altri autori francesi, insomma grandissimi narratori. Per quanto riguarda proprio la traduzione, lei una volta ha dichiarato che si traduce bene solamente nell'intranquillità, e mi è sembrata una definizione secondo me molto calzante, dovendomi mettere nei suoi panni per tradurre un Enar, nel senso che non si può mai stare tranquilli, penso, con lui, e, anche perché in questo romanzo in particolare ci sono anche molte cose regionali, molta parlata locale. Ecco, in particolare lei un'altra volta aveva dichiarato che bisognava coltivare il senso del ritmo, quindi non solo sulle parole ma anche proprio sul ritmo del romanzo. Ecco, che cosa vuol dire tradurre Enar, e di quanto ritmo ha bisogno una traduttrice per poterlo rendere poi come l'ha reso lei, in una lingua che lo stesso Enar, abbiamo sentito, era molto contento della traduzione? È una grande domanda, potremmo stare qua una quindicina di giorni, ma non credo che li abbiamo a disposizione. L'idea di intranquillità mi piace molto, perché io credo che la letteratura, la buona, la grande letteratura, la letteratura senza aggettivi, no? Che non ci deve intrattenere, ci vuole non tranquilli. Vuole scuoterci, ecco, per dire una parola banale. E tutti i testi, i grandi testi, sono sempre disseminati di elementi che ci destabilizzano, che non ci lasciano tranquilli, e per me questo, come traduttrice, è proprio il primo scrupolo che ho, cioè di riuscire a mettere insieme appunto il senso del ritmo, la tenuta della pagina, della frase, con quelle asperità, quella continua, come potrei dire, quella continua sfida, no? Che un testo fa al lettore, anche facendogli lo sgambetto, anche spiazzandolo. Ed è un equilibrio difficilissimo, di cui purtroppo credo che nessun traduttore ha la ricetta, se non quella appunto di essere nell'intranquillità, cioè di essere continuamente in ascolto di quello che succede sulla pagina, e anche, altra parola che mi sta molto a cuore, di tutti gli inciampi, di tutte le pieghe nascoste, di tutte le trappole che ci sono nella pagina, perché tutti quegli elementi lì appunto di non tranquillità sono gli elementi che aprono la pagina a tutti i significati possibili, alle letture, cioè aprono l'orizzonte di un testo, no? e lo fanno vivo e lo fanno dialogare con noi. E quindi per me ogni volta la sfida è sempre riuscire a produrre, una parola un po' brutta, ma insomma, una pagina che sia... che tenga insieme, no? Dal punto di vista ritmico, dal punto di vista di una sua bellezza, diciamo così, ogni volta diversa, e che però non sia mai troppo comoda, ecco, che non si sieda in una normalità, in una comodità, in quello che io chiamo, con il massimo del disprezzo, l'italianetto, no? Quell'italianetto a postino, no? Rassicurante. Il rischio di tanti traduttori è invece di tendere a una bella lingua tutta a posto, che lascia molto tranquilli. Ecco, io vorrei una bella lingua ma che non lascia tranquilli. E con Enar penso che sia molto difficile riuscire a rimanere tranquilli, anche perché è proprio la struttura del romanzo che non permette di dormire tranquilli, nel senso che secondo me è un frattale enorme, cioè un ibrido con tantissimi strati dentro e con paragrafi che si rincorrono, all'interno dei paragrafi si rincorrono tantissime storie al suo interno, e quindi a maggior ragione probabilmente, non solo dal punto di vista della lingua ma proprio della struttura del romanzo e di come poi lui lo allarga fino a stressarlo ai punti più estremi, sia dal punto appunto di vista della lingua sia per la struttura, anche con i dialetti, perché si è inventato, ora non so se se l'ha inventato, questa era la domanda successiva, se se l'ha inventato il dialetto pittavino santongese o se esiste veramente. Allora, quella del dialetto in questo romanzo è stato davvero per me un problema enorme, l'ho discusso anche con molti colleghi, perché ci sono, vabbè, no, il dialetto pittavino santongese esiste e sarebbe pittavino sarebbe del Poitou, santongese non so di quale altro appunto toponimo, però sì esiste, come però per esempio c'è una pagina in cui lui fa parlare un personaggio, una specie di guaritrice mezza strega, mezza concia ossa, in un dialetto che io credevo fosse il vero dialetto parlato nel Poitou, e lì è stato proprio un problema sapere, chiedermi cosa farne in italiano. In realtà poi, dopo che io mi sono scervellata per ragionare cosa fare di quella pagina in dialetto, lui mi ha confessato ridacchiando che in realtà è un dialetto, quella pagina lì è totalmente inventata, cioè è una specie di rielaborazione a partire dal dialetto del Poitou. E quindi io lì ho proprio deciso di fare un'operazione assolutamente artificiosa, in cui mi sono divertita molto, di non prendere un dialetto italiano equivalente, che non mi convinceva affatto, ma di fare veramente una specie di Frankenstein dialettale, cioè ho preso tutto quello che mi passava per la testa di dialetti italiani che conoscevo in qualche maniera e ho fatto una specie di mostro, una lingua che si sente che ha una specie di connotazione dialettale, ma di fatto non è riconducibile a nessuna regione, a nessun luogo preciso. Questo a riprova che appunto autori come Enar hanno una tale potenza, come diceva giustamente lei, dal punto di vista linguistico, che il traduttore per forza deve poi prendersi delle libertà di costruire delle cose che magari con altri autori non farebbe, almeno io non mi permetterei forse di fare. Però lui proprio ti chiede un po' di andare per la tua strada. Prima faceva riferimento a Greta, in realtà il nome, la parola Greta, cioè il nome Greta, lui non lo menziona assolutamente, perché parla di appunto, fa tutta questa specie di tirata sull'ecologia, il funerale Dio, tutta in rima, una prosa con le rime interne. E a un certo punto, io uno dei pomeriggi in cui piangevo su queste pagine, mi è venuta in mente proprio la rima fra Greta e pianeta, che mi sembrava anche abbastanza significativa, e quindi quella Greta lì in realtà l'ho infilata io, non c'è l'originale. Ah, ecco. questo è, allora dà ancora più valore, insomma, sia all'opera di traduzione che a quella poi appunto a quella che ispira Enar. Siamo alla domanda finale, che è la domanda di rito che facciamo a Tabula Rasa, che è quella invece riguardante quello che sta leggendo lei o in questo momento, o un libro che lei consiglia ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Allora, in questo momento ho sul mio tavolo un meraviglioso cofanetto uscito un paio di, credo, 10 giorni fa, che è la nuova traduzione dei Fratelli Karamazov di Dostoevsky, fatta da Claudia Zonghetti, che è una gigantessa della traduzione italiana, e credo che se non stasera ma domani comincerò questa traduzione, nuova traduzione dei Fratelli Karamazov. Quindi mi sento di consigliarla perché è un romanzo meraviglioso a prescindere, e perché so che questa traduzione sarà una festa, per cui proprio così, netta e decisa, direi i Fratelli Karamazov tradotto da Claudia Zonghetti. Perfetto. Allora, Yasmina, io la ringrazio tantissimo per essere stata con noi e per averci raccontato il banchetto annuale della Confraternita dei Becchini, che ricordiamo sono edizioni EO, 480 pagine, 19 euro, tradotto da Yasmina Melawa per appunto edizioni EO. Grazie mille, Yasmina. Grazie a lei, e volevo soltanto dire che appunto tutto il lavoro che ho fatto non sarebbe stato possibile se a EO non ci fosse questa squadra meravigliosa di revisori, editor, che aiutano tantissimo il lavoro dei traduttori. Grazie a voi. Grazie per aver ricordato il lavoro di tutti quanti. Grazie mille. Grazie, buona serata. Buona serata. diamo il benvenuto a Giuseppe Rizzo. Benvenuto Giuseppe. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Giuseppe Rizzo è un giornalista internazionale e uno scrittore che ha scritto i romanzi, ha esordito con Perrone l'invenzione di Palermo, ha scritto un libro per Feltrinelli che è La piccola guerra lampo per Radar Solo alla Sicilia, e adesso torna in libreria con un libro che si chiama I fantasmi non esistono, sottotitolo Vita, morte e miracolo, che, miracoli che nessuno vede. Giuseppe, noi abbiamo già annunciato il fatto che ci siano delle porte chiuse, delle stanze chiuse, un'assenza di libertà. Uno dei temi centrali del tuo libro, I fantasmi non esistono, è appunto la detenzione. Di cosa parla? Quanti fantasmi ci sono dentro le attuali prigioni italiane? Sì, allora, guarda, il libro è una raccolta di reportage e inchieste che in parte sono dedicate al carcere, in parte sono dedicate alle vite di chi vive per strada e in parte a chi finisce invece in istituti psichiatrici. I fantasmi, le persone che finiscono in carcere, che sono in carcere in questo momento in Italia, sono poco più di 50.000. Diamo la cifra giusta perché in carcere una persona in più o una persona in meno fa la differenza, sono 53.000. E per effetto sostanzialmente anche della riduzione delle incarcerazioni e della riduzione dei reati che c'è stato in questi 2 anni di pandemia, perché stavamo arrivando di nuovo a toccare quota 60.000 prima che scoppiasse la pandemia, mai come nel 2010 quando i detenuti sono arrivati a 67.000 con cifre di sovraffollamento carcerario che erano abominevoli per una situazione civile, con carceri in cui se potevano ospitare 500 persone al massimo c'erano 800 persone, e questo significa rendere già una situazione poco vivibile del tutto invivibile. Tu tripartisci il libro in tre sezioni, le vite, le morti e i miracoli, per l'appunto. Proprio rispetto al carcere, uno dei tuoi pezzi più toccanti, che è pubblicato su Internazionale nel 2017, si chiama Un paese in galera, ed è la storia di Sciacca. Sì, Lorenzo Sciacca. Ci racconti un po' che è successo a Lorenzo Sciacca? Io l'ho incontrato al carcere Due Palazzi di Padova, dove lui era detenuto per un cumulo di pena, si chiama, cioè gli avevano fatto una serie di processi e alla fine uno aveva tirato le somme e lo avevano condannato, se non ricordo male, a 30 anni di galera, perché aveva veramente rapinato un sacco di banche. E, per fare il secchione credo 20. Come, scusami? Per fare il secchione credo fossero 20, tanto è vero che il lieto fine avviene, sì, così. 20, perché 10 li aveva già scontati quando l'ho conosciuto io, e ne doveva scontare altri 20 ancora. Lui praticamente, quando io l'ho incontrato, appunto, era un uomo che aveva di fronte a sé un uomo di 40 anni, non stiamo parlando di un signor anziano, un nostro coetaneo sostanzialmente, io ne ho quasi 40, però era... me lo ricordo benissimo, perché era un uomo che davanti a sé aveva ancora una lunghissima detenzione con tutto quello che questo comporta. Da un lato hai superato quella fase molto turbolenta che ti raccontano tutti i detenuti, che è quella del processo, dell'attesa del giudizio, quella della carcerazione mentre stai ancora facendo le udienze, che è una fase veramente molto ma molto turbolenta, perché hai ancora delle speranze, ma allo stesso tempo hai forse con la tua famiglia, con i propri affetti, in più sei in carcere probabilmente per la prima volta. Lui no, lui era un uomo che era entrato e uscito dalle carceri da quando aveva 14 anni, perché la prima rapina la compie tra i 14 e i 15 anni, a Milano tra l'altro, partendo da Catania, facendo questo viaggio in macchina con altri ragazzi, lui è minorenne, gli altri sono maggiorenni, vanno a rapinare questa banca. Da quel momento in poi lo arrestano poco dopo, lo mettono al minorile di Milano, da quel momento in poi lui non fa altro che rapinare banche e finire in galera, uscire da galera e rapinare banche. Lo fa fino a Padova, appunto, in cui c'è un po' una svolta della sua vita. Lui lì conosce un gruppo di volontari, operatrici, operatori, che si chiama l'associazione si chiama Granello di Seppe, un giornale che è molto bello, ma in questo momento non mi ricordo fanno anche un giornale, fanno dei gruppi di ascolto, fanno dei gruppi di aiuto, e lui in quel momento vede per la prima volta nella sua vita di carcerato un'alternativa, e questa alternativa un po' lo cambia profondamente, anzi lo cambia, perché capisce che oltre alla vita che aveva vissuto fino ad allora c'è la possibilità di rimettersi in sesto e di fare anche altro. Comincia a studiare, prende il diploma, si laurea, fino a che, diciamo, io finisco questa conversazione con lui al carcere di Padova, torno a Roma, passa un po' di tempo, mi metto a lavorare sull'articolo, un giorno mi telefona all'improvviso e mi dice: guarda Giuseppe, a me mi hanno scarcerato, mi dispiace tantissimo per il tuo articolo. Che è una frase che io ricorderò sempre, perché una persona che è appena uscita di galera si scusava, perché è sempre stata abituata a scusarsi in galera per qualsiasi cosa, e si scusava perché un po', secondo lui, mandava a monte l'articolo che io stavo scrivendo su di lui, perché la storia era che lui era in carcere, ma non si rendeva conto che una storia ancora più bella era di lui che usciva dal carcere e che aveva attraversato sostanzialmente da fine anni 90 a metà anni 2000 un'epoca in cui il carcere era diventato un mostro che aveva risucchiato decine di migliaia di persone, crescendo. Calcola che lui mette per la prima volta piede in carcere alla fine degli anni 90, nel 1999 i detenuti erano 24.000. E appunto quando lui esce sono 60.000, il carcere è esploso, è diventato una città i cui confini sono veramente difficili da definire, e lui attraversa tutta questa storia. A me sembrava che appunto avesse moltissimo da dire, fino a che c'è stato per lui dietro fine e per me anche un modo di capire come una persona, non grazie al carcere ma nonostante il carcere, possa farcela. E infatti anni dopo mi è piaciuto ritornare sulla sua storia, perché lui nel frattempo ha fatto molto nella vita in questi pochi anni che è uscito di galera, però sostanzialmente oggi fa il mediatore giudiziario, e cioè una figura che interviene prima che una persona, se gli va bene, prima che una persona finisca in carcere, si metta nei guai e finisca in carcere, oppure subisca una denuncia, oppure se è in carcere, ha subito una condanna, si fa da mediatore tra la vittima e chi ha compiuto il reato. Quindi chiaramente per me è in qualche modo una storia che ha tantissimo da dire, ma non solo sulle vicende del carcere, anche se vuoi narrativamente, con varie fasi, e anche umanamente poi ha molto da dire, e ha da dirlo a tutti, perché appunto la sua storia è quella di un ragazzo sostanzialmente povero della periferia di Catania, con un padre che lui conosce in galera per rapine, tra l'altro, fa la stessa fine del padre, attraversa quasi 20 anni di carcere, vedendo esplodere il carcere, vedendolo diventare uno strumento del controllo sociale verso le classi più povere, perché hai voglia che oggi noi diciamo che le classi sociali non esistono, che sono porose, che sono molto più liquide, che sono trasversali. Questa cosa è vera fino a un certo punto, non è vera per niente se si visitano i carceri oggi in Italia, dove finiscono per la maggior parte persone di classe poveri, persone con tossicodipendenze, persone che non riescono che hanno fatto dei percorsi di vita e hanno seguito delle traiettorie che non hanno avuto nessun'altra risposta sul territorio se non quella dei tribunali e infine del carcere. Tra l'altro tu racconti questa storia, che è una delle pochissime storie appunto di positività dopo una detenzione in carcere. Racconti anche una barzelletta a un certo punto, per quanto possa essere amara questa barzelletta. la storia di un uomo che prova a ammaestrare due pulci perché spera che l'aiutino a guadagnare qualcosa quando sarà libero. Il giorno che i cancelli si aprono, metto i due animali in una scatola e va in un bar. Seduto a un tavolino, l'ex detenuto prova il suo numero. Funziona. Quando arriva il cameriere gli dice: «Le vedi queste due pulci?» Il cameriere non capisce, si mortifica, pensa che l'uomo voglia rimproverarlo per la poca pulizia del locale. «Mi scusi», dice, «gli uccide le pulci». Quindi in realtà racconti anche di tanta gente che non ce la fa, ma racconti anche di anche alternative al carcere. Ci vuoi parlare di quelle che sono anche le forme alternative alla detenzione che tu sei riuscito a osservare? Mi è capitato per caso di finire al carcere di Civitavecchia, dove in realtà ci sono due carceri diverse. Una è una casa circondariale che è appunto questa specie di mostro dove finiscono le persone ancora in attesa di giudizio, grande, anche lì posti disponibili circa 300-400, persone che ci finiscono sicuramente più di 500, in cui immaginare delle alternative, dei percorsi, dei progetti è totalmente impossibile. Allo stesso tempo, a 2-3 chilometri di distanza, in pieno centro di Civitavecchia, c'è invece una casa di detenzione, che è quella dove finiscono le persone che hanno ormai una condanna passata in giudicato, cioè hanno delle sentenze definitive, devono scontare i loro anni di galera, e quello è il posto dove finiscono. A Civitavecchia Centro ci sono 70 detenuti, e pur essendo così vicini, pur condividendo anche la stessa direttrice, le stesse molte delle persone che si occupano dei progetti nell'una e nell'altra struttura, alcune figure della polizia penitenziaria, sono due mondi completamente diversi. Da un lato c'è il caos e la cella come alternativa al caos e al reato che si è compiuto o che si aspetta, per cui si aspetta un giudizio. Dall'altro c'è una situazione per cui la cella è quasi sempre aperta, ci sono dei percorsi di reinserimento delle persone che sono in quel carcere, per cui quelle persone riescono anche a uscire con dei permessi di lavoro, passano molto tempo fuori, molte di loro passano molto più tempo della giornata fuori che dentro. E c'è un progetto, cioè ci sono una serie di progetti, dal teatro, che può sembrare una cosa stupidissima, alla falegnameria, al corso di informatica e così via, che cercano delle alternative, che cercano di costruire delle alternative per queste persone che sono in carcere ma che prima o poi usciranno. Allora, vorrei dire una cosa brutale: non è che le alternative al carcere ci debbano far pensare che il carcere nel 99% dei casi sia una soluzione giusta e poi dobbiamo trovare l'alternativa, perché, diciamo, proprio per quello che abbiamo detto prima, il carcere è diventato un luogo in cui finiscono veramente, per la maggior parte, persone che potrebbero stare tranquillamente fuori perché non sono una minaccia sociale. No, infatti nessuno di noi ha pensato che il carcere possa essere una no, soluzione. No, lo voglio dire, perché se no, sai, quando si ragiona sempre sulle alternative al carcere, uno dà per scontato che il carcere è l'istituzione che si debba se vogliamo, visto che prima avete parlato di Carver, di Cattedrale, di alta letteratura, diciamo, il carcere viene visto come lo strumento perfetto per confrontarsi col male, è invece lo strumento più schifoso e più inutile per confrontarsi col male e con chi ha compiuto un reato. E le storie, appunto, dei due carceri di Civitavecchia me l'hanno dimostrato in maniera lampante, perché appunto un carcere, se vuoi, aperto, in cui ci sono progetti, in cui ci sono percorsi alternativi, dai domiciliari ai permessi studio, ai permessi lavoro, al permesso di poter passare anche la notte fuori e così via, le alternative costruiscono qualcosa. In generale lo fanno con molta difficoltà, perché il sistema è completamente malato, e questo sistema è malato perché appunto ormai è l'unico modo che si immagina per confrontarsi con il crimine, con chi ha commesso reati e in definitiva, se vogliamo usare appunto una parola altisonante, con il male in qualche modo. Questa roba qui sembra pura filosofia, però ti vorrei citare un paio di numeri che ti fanno capire quanto dentro, chi vive dentro al carcere. Abbiamo detto che ci sono 53.000 detenuti, almeno questo fino all'ultimo dato, fino a giugno 2021. L'altro giorno ho parlato con il garante nazionale dei detenuti che mi diceva: di questi 50.000, 1.000 hanno una condanna a meno di un anno, non che hanno un residuo di pena, cioè non che sono stati condannati a 10 anni e hanno l'ultimo anno ancora da scontare, no, condannati a meno di un anno, 6 mesi, 8 mesi, ora si può immaginare che reato possono aver compiuto queste persone, sono reati infimi, sono reati veramente irrilevanti, soprattutto sono reati che non hanno una gravità, non sono minacciosi dal punto di vista sociale. Poi mettici altre 3.000 persone che sono in carcere e che hanno, sono state condannate tra i 2 e i 3 anni. Questa roba qua ti fa capire che ci sono almeno 3.000 persone che stanno lì per reati, diciamo così, minori, comunque non rilevanti. Poi se ci aggiungi che il 36% dei detenuti oggi in Italia deve scontare meno di 3 anni, cioè quasi un terzo, ma un po' più di un terzo, ti rendi conto che non stiamo parlando di una soluzione, cioè il carcere non è una soluzione a un pericolo sociale, a un allarme sociale. L'allarme si costruisce e il modo più semplice che è stato trovato per farci conti è il carcere. Ma infatti questo ci teniamo a dire, che la radio, insomma, comunque noi siamo assolutamente contrari a ogni tipo di carcere, quindi insomma questa cosa è stata sempre ribadita, il palinsesto da sempre gli ha dedicato spazio e approfondimenti, c'è una trasmissione che il venerdì che è Silenzio Assordante, che parla anche della condizione delle detenute e dei detenuti, e dentro il carcere poi anche dentro i CPR, cioè il progetto di Scarceranda che la radio porta avanti insomma da più di 20 anni, quindi sicuramente il carcere è da abolire e non esiste un modello sostenibile, quindi insomma su questo siamo abbastanza d'accordo. Sì, diciamo, poi io come persona mi interrogo anche, non ho le soluzioni, io incontro persone, racconto storie, è molto complicato comunque il confronto che c'è con chi ha commesso un crimine, e per crimine intendo anche un reato grave. Un'altra delle storie che mi è capitato di incontrare è quella di una ragazza in una casa di accoglienza a Roma, una ragazza che aveva commesso un crimine molto molto grave, anche lei da molto molto giovane, aveva tra i 14 e i 15 anni, si è ritrovata immischiata in una storia molto più grande di lei. Parlando con lei a un certo punto, sia lei sia l'educatrice che l'ha tirata fuori materialmente dall'istituto penale minorile di Roma, entrambe hanno detto: comunque noi questa cosa che il male esiste, ci dobbiamo fare i conti, non è che la possiamo del tutto eliminare dalle nostre vite, sarebbe anche sbagliato. La soluzione è il carcere? Mi sembra che da tutte le storie che io ho incrociato, sia tra l'altro di vittime di reato, sia di chi ha compiuto il reato, mi sembra che la risposta sia no. Mi sembra che il carcere oggi, e non da oggi, però oggi soprattutto, è un pozzo nero in cui buttiamo le vite che non, con cui non riusciamo a convivere, con cui come comunità non riusciamo a fare i conti. E senz'altro anche per noi la risposta è no, Giuseppe. Ti vorrei portare sugli altri due punti focali prima di concludere questa conversazione, i due punti focali del tuo libro. il problema, la malattia mentale e la vita in strada. C'è uno dei, secondo me, uno dei capitoli più belli, che si chiama C'era un ragazzo all'infernetto. Vorrei che forse tu raccontassi questa storia e se poi ci fai anche un esempio di vita in strada, in modo da avere un panorama. Scusami, un esempio di vita in strada. Tu hai parlato molto di strada, di carcere e di malattie mentali, quindi se ci dai a volo d'uccello un panorama in modo da completare quella che è, diciamo, la tripartizione del tuo libro. Allora comincio dalla storia di Valerio Guerrieri, che è appunto la storia che citavi tu, un ragazzo all'infernetto. Valerio nasce a in una famiglia complicata, nasce a Ostia, è il secondo di due figli, di genitori che si lasciano, si prendono, che vivono sostanzialmente pinti al margine dalle istituzioni, dalla società, anche con delle colpe enormi. Lui nasce e fin dalla giovane età ha dei problemi. Alle scuole medie si mette nei guai, non le finirà mai, viene diagnosticato con la sindrome borderline. È una sindrome che peserà sulla sua vita come un macigno, perché lo porta un ragazzo giovanissimo, stiamo parlando veramente di potrebbe essere mio fratello minore, è un ragazzo che cade mille volte durante la vita. Anche lui si mette a rubare motorini, rapina banche, fa del piccolo spaccio. Tutto questo non solo entrando e uscendo anche lui dal carcere, ma entrando e uscendo da un'altra istituzione, se vuoi, in qualche modo, che a suo modo è totalizzante e soprattutto sbagliata per lui. Ora, io non voglio dire che le cliniche psichiatriche sono il male, non lo sono. Non voglio dire che i servizi per psichiatrici agli ospedali sono il male, non lo sono. Ma ancora una volta ci troviamo di fronte a sistemi i cui ingranaggi non funzionano e che rischiano di stritolare le persone. Valerio Guerrieri è una di queste persone stritolate, perché la sindrome borderline gliel'hanno diagnosticata, dopodiché hanno provato tutta la vita, come mi ha detto uno dei pochissimi psichiatri che è riuscito a placare la sua vita, che è Santorullo, qui a Roma. Mi ha detto: per lui sono sempre e solo state immaginate delle soluzioni di comunità. Ma tu, a una persona che ha una sindrome borderline aggressiva, se lo metti in una comunità è esattamente l'opposto dell'aiutarlo, perché è una persona antisociale che ha bisogno di un percorso alternativo. Quale sarebbe stato il percorso alternativo per frenare gli scatti di violenza e per non farlo finire in galera più volte? Sarebbe stato quello di immaginare un percorso uno a uno con Valerio Guerrieri, in cui un terapeuta lo seguisse da solo, perché la comunità in cui lui continuava a finire era esattamente come benzina sul fuoco, tant'è che lui continuamente scappa dalle comunità, crea casini nelle comunità, ed è un ragazzo che pure a 20 anni finisce in un'altra delle aberrazioni di questo paese, che erano gli ospedali psichiatrici giudiziari, cioè i manicomi criminali. Le ha attraversate tutte, perché anche lì il sistema che si deve prendere carico della malattia psichiatrica, ridotto molto male da continui tagli, da politiche che hanno sostanzialmente smantellato un sistema sanitario che prima funzionava, perlomeno comunque non aveva questi grossi buchi. Ancora una volta una persona che aveva problemi di tipo sanitario è finita in galera, e in galera non ce l'ha fatta, non ha retto e si è suicidato, tra l'altro con un tribunale che continuava a dire: questo ragazzo non deve stare in galera, questo ragazzo non deve stare in galera, deve stare in una comunità. Non sarebbe stata la soluzione giusta, pazienza, però quantomeno doveva essere scarcerato, perché il tribunale l'aveva ordinato. ma i tempi della giustizia sono quelli che sono, il carcere è un buco nero che ti risucchia e lui non ce l'ha fatta e è ammalato. Questa è in breve una storia che tiene insieme due problemi che sono, che vanno a spesso di pari passo, perché la malattia psichiatrica, quando esplode in gesti di violenza o di quello che noi percepiamo come violenza, spesso la traiettoria finisce in un tribunale e dal tribunale in una galera. Mentre mi chiedevi anche della vita in strada, io forse questi lavori, questi reportage del libro sono cominciati proprio raccontando la vita delle persone che vivono per strada, e in particolare di una persona che io ormai conosco da anni, un ragazzo anche lui con un forte disagio psichiatrico, che vive da anni per strada e che mi ha, come dire, un po' smontato l'idea che avevo io delle persone che era un'idea ingenua sulle persone che vivevano per strada, e soprattutto mi ha fatto vedere un mondo con confini molto larghi anche numericamente, perché diciamo l'Istat parla di 50.000 persone senza dimora in Italia, ma con chiunque parli, delle associazioni ti dicono che sono molto di più. Del resto anche la statistica dell'ISE, cioè la ricerca dell'Istat è del 2014, quindi diciamo è bella che è andata, però questo gruppo enorme di persone è come se, diciamo, non ci riguardasse perché ci sembrasse piccolo, ma se pensi che in Italia ci sono 5 milioni di persone, quasi 6 a dire la verità, che vivono in povertà assoluta e che vedono la strada come orizzonte e minaccia, capisci bene che è una parte fondamentale di questo paese che nessuno dovrebbe far finta di non vedere. Assolutamente, guarda, in chiusura di questo intervento ti ringraziamo veramente tanto, perché il tuo contributo è stato prezioso, perché hai parlato in modo assolutamente esaustivo, chiaro, anche di tematiche di cui, ovviamente partendo da un libro ovviamente, però insomma di argomenti di cui si parla sempre troppo poco, ma che esistono e insomma sono assolutamente da affrontare, anche perché molto delicati e complessi. E come domanda di rito finale noi facciamo ai nostri ospiti quella del consigliarci una lettura che possa essere recente, ma anche se non ti viene in mente nulla, perché come dico sempre a bruciapelo, però ecco, che possa essere una lettura che consigli, insomma, che ti viene in mente. Forse il libro che sto leggendo ora è, non so se è uscito o deve uscire, comunque è l'ultimo libro di Edouard Louis, che è uno scrittore francese, si chiama Lotte e metamorfosi di una donna, è un piccolo libro cioè una storia che lui sta costruendo raccontando la storia della sua vita sostanzialmente, e questo è dedicato alla madre, mentre quello precedente al padre, ed è la lotta di questa donna per emanciparsi da una povertà e da un mondo che l'ha brutalizzata, soprattutto attraverso due mariti alcolizzati, violenti, ed è anche la lotta di un figlio per riappropriarsi della storia della propria madre, per riavvicinarsi anche alla storia di una madre. Mi sembra che un po' anche dei temi che abbiamo toccato stasera ci sono, è un libro molto breve, scritto benissimo, ha delle parti molto arrabbiate ma anche molto dolci. È un bel libro. Perfetto, grazie mille, quindi consigliamo questo, e ovviamente anche I fantasmi non esistono. Grazie mille e spero di risentirci presto. Buona serata. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Ciao.

per continuare a parlare di presenza di animali e esseri umani insieme, e di come gli umani vanno un po', come dire, a scombinare un po' i piani della natura, parliamo con Valerio Stivè, traduttore del volume dall'inglese di Big Questions di Anders Nielsen, pubblicato da Eris. Ciao Valerio. Ciao, ciao, buonasera. Ciao, benvenuto. Grazie. Allora, Big Questions, quindi grandi domande per questo grande volume, che è un po' un mattoncino, che credo pesi circa 2 chili, fatto di una bella carta resistente da Eris, e in copertina c'è un disegno da colori pastello di questo uccellino che sembra nascere da un casco da aviatore, e questo volume, appunto, sono 658 pagine, e leggendo la postfazione l'autore spiega un po' il percorso che ha dovuto agire per scrivere questo libro, che è stato scritto dal 1996 al 2011. Non so se ti va, Valerio, visto che tu hai tradotto, credo, anche appunto la postfazione, se ti va di raccontarci un po' la gestazione intanto di questo libro. Certo. È interessante perché in un certo senso ha accompagnato, cioè questa storia ha accompagnato la crescita di quello che adesso è uno degli autori più interessanti che ci sono nel panorama nordamericano, Anders Nielsen. Ma quando la storia gli è nata tra le mani, lui era ancora uno studente di scuola d'arte, un universitario fondamentalmente, che durante un workshop mettendo in atto un esercizio tecnico sulla narrazione, si è ritrovato a disegnare innumerevoli volte un uccellino, e da lì questo esercizio di ripetizione, di rottura dello schema sia grafico che poi è diventato narrativo, gli ha fatto crescere nella testa l'immagine di uno scenario in cui si muoveva appunto questo soggetto su cui si stava concentrando lui, quello degli uccelli. E mano a mano, vabbè, tante piccole storie che lui ha praticamente inizialmente autoprodotto, anche che poi autoprodotto, se vogliamo, è una parola grossa, perché all'inizio, come spiega lui, semplicemente ne aveva fatto delle raccoltine, presumo in pochissime copie, forse per gli amici e basta. Sì, tipo, mi sembra che racconti un aneddoto buffo sul fatto che le primissime storie le aveva proprio così passate a un collega, che il fatto che avesse apprezzato, insomma, gli aveva gradualmente fatto acquistare fiducia. Il fatto che il collega avesse riso l'aveva convinto, se non sbaglio, perché effettivamente fa ridere questo libro, è molto molto ironico. Perché c'è di tutto, sì, se vuoi ci sono delle situazioni quasi da striscia di animali buffi, per poi arrivare arrivare abbastanza presto a tragedia, ragionamento filosofico religioso e di nuovo situazioni insomma ironiche, assolutamente ironiche. Ma diciamo, di cosa parla questo Big Questions? Praticamente sono, almeno inizialmente, sono questi teneri uccellini molto buffi anche per come si muovono, che smangiucchiano delle molliche sul prato ed iniziano a farsi delle domande. Proprio uno dei primi delle prime domande che uno dei due uccellini si pone è: sai, ultimamente sto riflettendo molto su alcune grandi domande. Per dire, ora stavo pensando a una cosa: secondo te in che misura siamo responsabili dei nostri destini? Cioè, voglio dire, devo impegnarmi personalmente per ottenere una vita piena e soddisfacente, oppure invece basta che me ne stia buono buono ad aspettare che le cose seguano il loro corso? Già questa cosa detta da un uccellino che sta beccando le molliche per terra è spiazzante. Però diciamo, ti va di raccontarci che cosa accade, cioè qual è l'evento che porta poi proprio al decollo di questo racconto? Inizialmente, proprio come dicevi, ci sono degli uccellini che fanno quello che fanno gli uccellini, cioè svolazzano e mangiano, no? A volte c'è anche ironia su questa cosa, sul fatto che non facciamo altro, però usandoli un po' come delle maschere, l'autore li fa parlare come delle persone normali, se non fosse che a un certo punto la loro, come dire, no, come si dice, credo più con un modo di dire inglese che insomma, americano piuttosto che, cioè, invece che italiano, la vita non è quella cosa che ti succede quando sei a fare dei piani, no? Dei esatto. Progetti. È quello che c'è in questo libro qui, perché se loro stanno lì, chiacchierano e si fanno, diciamo, cioè si fanno delle seghe mentali fondamentalmente, no? E a un certo punto gli cade lì una bomba, cioè è detto anche lì in senso letterale, perché inizialmente gli crolla davanti, cioè gli precipita davanti un aereo militare e da lì la loro vita è ribaltata. E se vuoi, no, queste grandi domande, io direi anche, permettiamocelo anche alla lettera, se vuoi, per tradire, anche grandi questioni, no? Le questioni della vita sono quello che è, cioè è tutto una, cioè tutto questo mattoncino qui è tutta una voglia di ragionare su ogni cosa che ci troviamo davanti, cioè su ogni problema che ci possiamo trovare davanti in termini cosmici, no? Come la vita ti si possa scombussolare totalmente, ribaltare da un momento all'altro, e insomma nel frattempo te stai facendo delle cose normalissime. Esatto, cioè questo evento sconosciuto, questo enorme uccello di metallo, no? Perché metallo, poi loro vedono, sì, questo coso e dicono: ma che cos'è? Un enorme uccello. Poi vedono una bomba esplosa, sarà l'uovo. Sì, perché loro ragionano in termini da uccelli, no? Che a noi, quando lo leggi lì per lì, per un attimo, se ti fermi a pensarci, ti sembra un modo di ragionare limitato, no? Ma poi alla fine è anche come ragioniamo noi umani, no? Guardiamo tutto nelle nostre prospettive. È su questo che gioca molto Anders, sul prendere in giro noi, mentre noi crediamo di prendere in giro degli uccellini. Esatto, infatti, appunto, come dicevi anche tu, sono molto umani questi uccellini, e dopo la caduta dell'aereo, un po' come gli animali del libro precedente di cui parlava Olivia con Rocco Lombardi, si dividono quasi in due fazioni, no? Una è di quelle che sorveglia l'uovo, crede che è una cosa divina, arriverà un ringraziamento dall'alto, e l'altro gruppo invece che pensa, che un po', diciamo, prende in giro questi uccellini credenti, tra virgolette, e quindi sembra veramente di poter attraverso questo racconto fatto da questi uccellini, l'essere umano, cioè il lettore, riesce a ribaltare tutto e a, come dire, a rivedersi, come dicevi anche tu, in questa storia, quasi a sentirsi un po' fesso in un certo senso. Sì, assolutamente. Sì, sei partecipe di questa allegoria che poi diventa autoronia se ti ci fermi un attimo a pensare. Ma come mi diceva Anders stesso, non è che lui voglia creare una separazione tra esseri umani e animali, perché siamo tutti parte di uno stesso regno, la natura non è che a noi ci distingue dagli animali, siamo noi stessi parte della natura, mi diceva, e è una visione che farei fatica a contrastare, no? E quindi motivo in più per cui la metafora dell'uccellino va benissimo anche per rappresentare un gruppo umano, no? Sì, poi come dici te, noi siamo parte della natura, se riusciamo a sentirci tali. Ci sono, diciamo, due esseri umani veramente attivi in questo libro e rappresentano un po', secondo me, uno, diciamo, l'essere umano che non si sente parte della natura, che si sente in qualche modo superiore, che può essere il pilota dell'aereo, e un altro che forse non ha totalmente coscienza di sé, è un essere umano sicuramente con qualche, se vogliamo, qualche limite, però in qualche modo invece riesce a trovare una connessione con gli uccelli della storia. Infatti uno di loro diventa proprio il suo protetto, e non solo, lo protegge, l'uccellino protegge l'umano, quindi ci sono questi due lati, secondo me, molto forti. Secondo me a quel punto voglio credere che in quel punto lì, cioè quando la storia è decollata e sono passate un po' di centinaia di pagine, la storia comincia anche a vivere da sola e si perda un po', no, la metafora stretta, e quindi ci sono un po' dei gruppi di animali, gruppi di individui che veramente io credo che dopo anni che Anders, perché ci ha lavorato veramente 10 anni, credo che questa storia qui di bello abbia che diventa viva, cioè ti sfugge di mano quando la leggi a un certo punto. Infatti anche questo ti volevo chiedere, perché lo stile anche del racconto dell'autore è molto forte, sembra quasi uno stile cinematografico, con lunghe pause, silenzi, delle attese, e anche a livello grafico ci sono dei grossi spazi liberi senza cornice, all'inizio si parte con delle vignette molto serrate e poi sempre di meno. Tu che lo hai tradotto e quindi hai avuto modo di osservarlo proprio nel dettaglio, mi chiedo, hai notato un'evoluzione nel disegno dell'autore in tutti questi anni poi in cui lui l'ha realizzato? L'evoluzione, se lo sfogli da un certo punto di vista, è palese all'inizio, perché inizialmente lui stesso non si prendeva sul serio, però ben presto, diciamo, si comincia a vedere magari l'uso di anche di strumenti, diciamo così, più affilati, no? Di una padronanza maggiore, però pensiamo che sono veramente molti anni di lavoro, e c'è anche una grossa coerenza nell'insieme, è veramente, cioè, si vede un'evoluzione, ma si vede anche una grande determinazione a mantenere una coerenza. È uno, io credo che non sia semplice imbattersi in romanzi a fumetti nel vero termine del romanzo come storia di grande respiro, ma questo qui è di sicuro un romanzo a fumetti. Sono d'accordo. Valerio, ti chiedo un'ultima domanda, che poi è quella che facciamo un po' a tutti, quindi un po' a bruciapelo. Ti chiedo un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori. Non deve essere per forza contemporaneo, cioè del momento, una novità, non deve essere per forza un fumetto, quindi insomma sentiti libero di dirci una cosa che ti è piaciuta senza stress. Non deve essere un fumetto, no, no, no, no, può essere, cioè sarebbe meglio se fosse un fumetto. Può non essere un fumetto, però può anche non essere un fumetto, ecco. Mi cogli di sorpresa, e in questo momento ci sarebbe sicuramente tantissime cose da consigliare, da ricordarmi, però siccome io non sapevo che avrei parlato con te, no? Ah, perché Olivia non te l'ha detto. Io pensavo di aver parlato con Olivia. E quindi ora mi viene a mente che te, se non mi sbaglio, curi il festival Baba Yaga che c'è a Roma tra tipo un paio di settimane. Esatto, sono una delle curatrici. Mi sarebbe piaciuto venire, e ci sarà però il mio carissimo amico Maurizio La Cavalla, e secondo me... magari a chi è piaciuto questo libro, o comunque anche a chi non è piaciuto, non me ne importa, però io amo molto consigliare un libro a cui che ha realizzato Maurizio qualche anno fa, che si chiama Due attese, che a cui fra l'altro abbiamo lavorato insieme. Per Edizioni BD. Sì. Perfetto. Scusa la domanda a bruciapelo, ma ti ringrazio per questo bel consiglio. E grazie anche per averci raccontato Big Questions di Anders Nielsen. Ma grazie a voi per avermi invitato. A presto, parlare. Allora, alla prossima. Buona serata, grazie. Ciao Vale. Siamo ai saluti, giovedì 7 luglio, bentornati e bentornate su Radio Onda Rossa. Avete ascoltato la puntata speciale della cinquina di Tabula Fata, che è il premio dell'anno, del libro dell'anno scelto dalla redazione di Tabula Rasa, i 5 migliori libri che abbiamo letto e abbiamo poi dopo raccontato sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ripetiamo i titoli dei libri, che sono Il banchetto annuale della confraternita dei Becchini di Mattia Enar, edizioni EO, Le cattive di Camilla Sosa Vigliada, edizioni Sur, Il colore della Repubblica di Silvana Patriarca e Inaudi editore, I fantasmi non esistono di Giuseppe Rizzo Mondadori, Big Questions di Anders Nielsen, Eris edizioni. Tabula Rasa finisce qui questa sera, ma continuerà con la programmazione riproponendo quelle che sono state le puntate più belle di questa